Art of Fest 2022, siamo a Napoli, sono in compagnia di Giorgio Lolli che ha appena, salve, ciao Tersi, che ha appena concluso il suo Eufem solo, a casa di Giovanna Francese. Giorgio Lolli è una danzatrice e è una italiana. La prima domanda che le voglio porre è questa. In questa esperienza Art of Fest, vivere e lavorare in una casa di qualcun altro, qualcun'altra di cui non si conosce nulla, ha influenzato il rapporto identità-alterità di cui ti interessi per la tua ricerca autoriale? Assolutamente sì, lavorare a casa di qualcun altro è stata un'esperienza molto, cioè un pochino da un lato mi ha ricordato quei momenti di lockdown in cui eravamo chiusi in casa, però dall'altra parte il fatto che non fosse proprio casa mia mi ha dato la possibilità di lanciare il pensiero un po' più lontano. E sicuramente il fatto che questa casa sia così tanto casa di Giovanna, perché è uno spazio molto speciale secondo me, mi ha dato la possibilità durante la casa di conoscere Giovanna meglio e anche lì di arrivare a decidere di pensare insieme a come potevamo mettere insieme non solo la casa ma anche appunto la vita di Giovanna e le sue passioni. Allora, seconda domanda, Eufem è stato pensato con un lavoro di tre performer, tre danzatrici. Il fatto che tu abbia già dal titolo Eufem è solo, per questo che il fatto che tu abbia dovuto affrontare una rispettiva, quanto è stato complicato? Si parla di difficoltà precise tecniche a riguardo. Allora sì, dover riscrivere il lavoro è stato molto interessante perché da un lato c'era il desiderio di rimanere fedeli a quello che era, quindi mantenere questa idea del 3 e di capire come questo 3 può collassare in 1, però dall'altro lato è un lavoro che io mi sento molto da solo, non solo perché appunto sono in casa con Giovanna e Sara che guarda casa sono altre due giovani donne con le danzatrici che ho lasciato a casa stavolta, e però è anche un lavoro che io sento tanto la relazione con lo spazio e con il pubblico, e quindi non ho affrontato grandi difficoltà se non quella appunto di utilizzare il pubblico. Già l'hanno fatto due volte, il pubblico di ieri e il pubblico di oggi è stato molto diverso, come si può fare nello spazio, come riesce a fare che fai, qualche sorriso in più o in meno. Ciao, buona serata. Altra domanda è il film di Oferia, questo lo ci troviamo, non mi ha dato, lo lavoro sul ricordo, sulla scrittura, sul gioco, sul viaggio. Ma banalmente, mi sono fatto la domanda, anche la vostra domanda, ma dove vuole andare? Cioè, dove ha quando vado a sentire qui sono tutti molto educati, la roba non rimane per terra, però no, sì, se qualcuno volesse venire a vedere il mio spettacolo, perché avrò sempre un istituto per raccogliere la planina e leggere. Quello che c'è scritto. È bello, il fatto che siano arrivati spettatori e spettatrici di alto è dovuto anche, non so, allo spazio della casa, allo spazio domestico, come se fossero naturalmente educati. E cosa che forse ha dato state motivazioni. Ultima domanda e ti lascio andare. Esatto, a bere, after fest è un leitmotiv. Nel fest, ovvero se io ti dico io muoio, cara Giorgia Lolli, tu che mi rispondi? Ti rispondo come poi ho anche lasciato scritto un'opzione che mi piace molto, che si tratta di parole, che non si può parole, io sono per parole, perché io ho detto e le porterò a casa. Ah, ok, grazie mille Giorgia, ci vediamo presto. Una linea breve, ci trovo anche entrambi ora, ed effettivamente anche un abbraccio è una linea breve. Ora, grazie mille e ci vediamo presto con un'altra performance e niente, adios.